Allora, sono le ore 13 e 15 di giovedì 19 marzo 2024 e vengo chiamato in causa dall'amico e sodale Nicola Bruno, detto Smirch. Vengo chiamato in causa, dicevo, insieme a altre persone, sono in ottima compagnia, come Gianluca Diegoli e Vincenzo Cosenza, in un post scritto da Nicola su Threads che lamenta, diciamo così, il debordare di quello che lui chiama il vintage marketing, che prende tante forme, indubbiamente, a cominciare da questa pletora di anniversari, ricorrenze che infestano i social media, questo continuo ripescare il passato. Ecco, io se proprio devo commentare, non sarei troppo preoccupato né dal vintage marketing, che di per sé non fa altro che, diciamo, assecondare il maggior potere d'acquisto, chiaramente, della generazione dei boomer, né la deriva passatista in quanto tale. Io credo che sia un problema, nel senso che ciascuno di noi, grazie a internet, può ripescare dal passato qualcosa che è molto importante anche per interpretare il presente, sia il proprio presente, sia in generale il presente del mondo in cui vive. Il punto è, secondo me, la cosa di cui preoccuparsi è quando cediamo addirittura la capacità di dare un senso al passato ad un'autorità editoriale, diciamo così, superiore a noi, che può essere quella delle piattaforme che ti sbloccano un ricordo, perché sono loro che hanno interesse a farlo, e quindi loro a decidere che cosa del tuo passato magari è giusto provare a ricondividere adesso. E ancor peggio quando, uscendo dal mondo solamente digitale, vengono istituite, per esempio, le giornate mondiali. Non esiste ormai una sola giornata del calendario che non sia anche la giornata mondiale di qualcosa, e il che è sicuramente un problema, perché se prendiamo per esempio la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sembra quasi che, una volta trascorso questo che è un problema editoriale per esempio per i piani editoriali delle aziende, per chiunque abbia delle social properties eccetera, una volta gestito il picco di attenzione su quella tematica, allora possiamo fondamentalmente non occuparcene per il resto dell'anno. E questo principio vale più o meno per tutte le cause, anche nobilissime, che si vorrebbero di cui si vorrebbe dare maggiore visibilità in certi momenti, però è il solito problema. È un po' la stessa cosa che succede con le feste comandate, che comprimono, schiacciano le giornate di tutti intorno a una serie di riti e di dogmi anche, e invece gli anniversari personali, che sono invece qualcosa che appartiene alla nostra vita e di cui possiamo mantenere, diciamo, un governo e un controllo. Ecco, la stessa cosa sta succedendo su scala più grande, ed è molto peggio, perdonatemi, del vintage marketing. Significa non solo perdere, come già sta accadendo, il controllo dello spazio pubblico, ma addirittura dello spazio-tempo pubblico. E proprio adesso che, insomma, potremmo esplorarlo abbastanza liberamente, c'è la netta volontà di restringerlo. E ringrazio Nicola sicuramente per avermi permesso di dirlo in questa circostanza, e saluto anche, naturalmente, Gianluca e Vincenzo.